Ecco, dimmi un po' la storia allora del Pedenol. Ecco, questo Baitel Kiel è un po' la storia del Pedenol, anche sulle carte geografiche, sulle carte IGM, Baitello di Pedenolo, è la costruzione più, la baita più antica di Pedenolo. Risale a al 1800, indietro nei secoli, fino a prima del 24, prima del 24 era il latte all'Ecce, al Mulgias, al Portale Fornella, una volta al disse al Portale Fornella col Mul, e questo kill servia non ma per quando il piovea, per dormire de noce, al ghera un bar per li vese un recinto de crap, per li vese sci e basta. Dopo del 24 ho fatto quella baita lì, che sale la casina, e del 53 ho fatto questa stalla qui.